X24, la storia. Una caccia all'uomo. Se mi chiedete se eravamo sicuri di prendere Saddam quella notte, direi al 50%. Devi dirmi dov'è Saddam! Io sentivo che quella sera ce l'avremmo fatta. È qui. Ero faccia a faccia con Saddam. Come ti chiami? Io sono Saddam. Saddam chi? Saddam chi? Diglielo! Forza! Saddam Hussein. Ce l'abbiamo davvero fatta. Lo abbiamo preso. Un dittatore sanguinario. Hai ucciso gli sciiti, i curdi, hai distrutto il mio paese! Non sono stato io a distruggerlo, lo hanno fatto gli americani! Questa è la storia della caduta di un dittatore, raccontata da una delle sue vittime. Milioni di iracheni speravano di vedere quel momento. Saddam era proprio nelle mie mani. Il 30 dicembre del 2006 a Baghdad, alle 6 del mattino, Saddam Hussein viene impiccato in una località segreta. Saddam era stato catturato dalle forze speciali americane 3 anni prima, nel 2003, in un'operazione rimasta a lungo avvolta nel mistero. Oggi, a Mix24, raccontiamo la storia della caccia a Saddam Hussein attraverso le testimonianze di chi ha partecipato a quell'azione, a cominciare da Samir, un giovane iracheno che ha svolto un ruolo decisivo e che per la prima volta ha deciso di raccontare la sua storia. Samir è tra le decine di migliaia di musulmani sciiti e iracheni a venire costretti all'esilio dopo la guerra del Golfo del 1991. Pensammo, questo è il momento di rovesciare il regime di Saddam. Così cominciamo a organizzare delle rivolte, senza però riuscirci. Purtroppo nessuno ci aiutò e allora dovemmo lasciare il paese. Dunque Samir è costretto a lasciare il suo paese. Con lui se ne devono andare anche tutti gli iracheni che nel 91 hanno partecipato alla rivolta degli sciiti contro Saddam. Samir e gli altri avevano sperato in un sostegno internazionale che non è mai arrivato e la vendetta del regime non si è fatta aspettare, feroce e sanguinaria. La fuga di Samir segna l'inizio di un doloroso viaggio verso l'esilio. Questi i suoi ricordi. Saremmo stati più di un migliaio. Tutti concentrati nel campo profughi in Arabia Saudita. Ho dovuto vivere lì per 3 anni e mezzo in una tenda. Un'esperienza terribile per me. È durissima vivere in una tenda senza neanche immaginare quale sarà il futuro. Tutti noi avevamo perso ormai ogni speranza. Nel 1994 Samir finalmente viene accettato dagli Stati Uniti come rifugiato politico. Poi nel 2003 l'America decide di invadere l'Iraq e Samir partecipa all'operazione. Queste le sue parole. Ho chiesto agli americani se potevo aiutarli in qualche modo, combattere come soldato. Ma l'unico posto che mi è stato offerto è stato fare il traduttore. Per 15 anni Samir è costretto all'esilio, ma nella sua vita ha un unico obiettivo: vendicarsi di Saddam Hussein e contribuire a far cadere il dittatore. L'occasione è l'attacco inglese-americano all'Iraq. Il 19 marzo 2003, 300.000 soldati americani e britannici invadono il sud dell'Iraq dando il via all'operazione Iraqi Free. Il 9 aprile 2003 i Marines americani entrano a Baghdad dopo una battaglia di 7 giorni. I carri armati americani si trovano esattamente a 1,5 km da qui, dall'Hotel Palestine, centro di Baghdad, dove ci troviamo. Sono praticamente pronti ad intervenire. Ancora combattendo sul ponte Jamuria qui per arrivare da questa parte del fiume e ricongiungersi con le truppe americane. Guardate, quello è il primo carro armato americano che entra nel centro di Baghdad. 2 maggio 2003, il presidente americano George Bush dichiara la fine dei combattimenti in Iraq. Le principali operazioni di guerra in Iraq sono finite. Gli Stati Uniti e i loro alleati in Iraq hanno vinto. Il tiranno è caduto e l'Iraq è libero. Oggi a Mix 24 raccontiamo la caccia a Saddam Hussein durante i giorni di dicembre del 2003. Continuiamo subito dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Le principali operazioni di guerra in Iraq sono finite. Gli Stati Uniti e i loro alleati in Iraq hanno vinto. Il tiranno è caduto e l'Iraq è libero. Saddam è caduto e l'Iraq è libero. Bentornati a Mix 24. Poche settimane dopo l'invasione americana dell'Iraq, George Bush, lo ricordiamo, canta vittoria. Ma la guerra, lo sappiamo, in realtà è tutt'altro che finita. Intanto però gli americani hanno una sola priorità: trovare Saddam, catturarlo, vivo o morto. E dopo sei mesi di indagine, gli uomini delle forze speciali americane pensano finalmente di essere sulla strada giusta. È il 13 dicembre del 2003 alle 19:26, in una zona vicino a Tikrit, nell'Iraq del Nord, l'operazione inizia. Nome in codice: Alba Rossa. L'esercito americano è ormai sulle tracce del fuggitivo. Nome in codice: obiettivo alto valore 1. La notte del 13 dicembre proveranno a catturarlo, così i ricordi di Samir e del comandante di brigata James Hickey. Il mio comandante di brigata, il colonnello Jim Hickey, una mattina venne da me e mi disse che avevamo avuto precise informazioni. Controllammo le forze disponibili e poi discutemmo su quante ce ne sarebbero servite per quell'operazione. Avevamo un'idea chiara di quale fosse l'area in cui era compreso il nostro obiettivo. In quest'area stabilimmo due punti specifici. La prima la chiamammo Wolverine 1, la seconda Wolverine 2, per semplificare le comunicazioni. Due obiettivi, due fattorie vicino a Tikrit, il paese natale di Saddam. Proprio in una di queste due fattorie, secondo gli americani, potrebbe essersi rifugiato il Rais. Ma chi ha dato agli americani queste informazioni? Sono solo tre, infatti, le persone che conoscono quel segreto. Una di loro è Omar al-Muslit, la sua guardia del corpo personale. È proprio grazie a lui che l'unità speciale americana arriva a quegli obiettivi. Due giorni prima, infatti, gli americani lo hanno catturato a Baghdad e lo hanno messo sotto torchio. Anche per Samir, il traduttore iracheno, è giunta l'ora di entrare in azione. Samir, al servizio delle forze speciali americane come interprete, viene chiamato a fare da traduttore durante l'interrogatorio di Muslit. Questa è la sua ricostruzione. All'inizio Muslit mentì riguardo a Saddam. Mentì sul suo nascondiglio. Ma noi avevamo informazioni sufficienti e glielo facemmo capire con chiarezza. Se lui hanno spostato, io non... Siamo stanchi! Mi stai prendendo in giro? Devi dirmi! Muslit capì che non poteva più mentire perché noi disponevamo delle immagini prese dal satellite. Gli mostrammo la cartina e lui localizzò la fattoria. Ci disse che la fattoria si chiamava Daur. Prendemmo le informazioni di Muslit per buone. D'altronde stavamo eseguendo una missione speciale, un po' particolare. Ma se mi chiedete se eravamo sicuri di prendere Saddam quella notte, direi al 50%. Nessuna certezza, dunque, come avete sentito dalle parole del comandante americano Rai Odierno. E nessuna possibilità di verificare le informazioni di Muslit. Nessuno sa se mente o se dice la verità. La caccia all'uomo, che da mesi impegna l'unità speciale dell'esercito americano, potrebbe durare ancora a lungo. Sono le 19:40 del 13 dicembre del 2003. Ha inizio la prima fase dell'operazione Alba Rossa. I terreni e i frutteti a nord di Ad-Daur vengono isolati con una manovra gigantesca, ma studiata in ogni dettaglio. All'interno di un vasto perimetro non sarà più possibile né uscire né entrare. Così la testimonianza di Samir. Avevamo carri armati ed elicotteri, più molte truppe pronte a combattere. Secondo me gli americani pensavano che ci sarebbe stata una battaglia. C'erano tanti soldati in campo, moltissimi. Isolammo circa 2 chilometri su un'area totale di 4 e poi ci assicurammo che ci fosse copertura aerea per mezzo degli elicotteri. I mezzi aerei ci fornivano dall'alto una buona visuale in caso qualcuno tentasse di sfondare il cordone. All'interno del cordone ci sono gli obiettivi, le fattorie dal nome in codice Wolverine 1 e 2. La quarta divisione fanteria si aspetta una fiera opposizione da parte dei pretoriani di Saddam Hussein. Così le parole del comandante della quarta divisione delle forze armate americane, Rai Odierno. Pensavamo che Saddam avesse a disposizione un gruppo di suoi fedelissimi collocati nel giro di un paio di chilometri dal punto in cui si trovava e pronti a dare il segnale nel caso ci fosse qualcosa di strano. Eravamo sicuri che avessero predisposto una via di fuga e, per impedirla, avevamo posizionato dei blocchi lungo il Tigri. 600 soldati pronti a combattere, un'intera divisione di elicotteri Apache e numerosi carri armati Bradley. Gli americani si aspettano una reazione violenta e si preparano alla battaglia per la cattura di Saddam Hussein. Sono 19:54, il colonnello Steve Russell deve bloccare ogni via di fuga. Gli americani contano anche sul vantaggio dell'oscurità. Soltanto loro possono vedere il cordone esterno grazie ad un sofisticato sistema di rilevamento digitale che fornisce la mappatura dettagliata di ogni posizione. Così il comandante Steve Russell. La quarta divisione fanteria poteva contare su una sofisticata tecnologia digitale che permetteva di concentrare rapidamente tutte le forze necessarie in un certo punto. Per noi questo era di grande aiuto. Se qualcosa fosse andato storto, avremmo potuto muoverci rapidamente e radunare altre truppe. Potevamo vedere la posizione sulla mappa e raggiungerla. Ormai tutto è pronto, l'obiettivo è a portata di mano. L'unità per le operazioni speciali dell'esercito americano attende il segnale. Il nome in codice è Task Force 121. A guidarla il colonnello James Hickey. Il colonnello Hickey comincia a muoversi con le forze speciali fino al luogo che, secondo Muslit, è l'ultimo nascondiglio di Saddam Hussein. Così racconta lui stesso. Le informazioni erano ottime. Non avevamo mai avuto un'occasione così. Io sentivo che quella sera ce l'avremmo fatta. Il tenente John Iversen è invece l'autista di una piccola unità di supporto chiamata a formare un cordone protettivo interno per le forze speciali. Queste le sue parole. Quando lasciammo la nostra postazione era una notte limpida. La visibilità non era un problema, l'equipaggiamento era perfetto. I visori notturni migliorano la visione se non c'è sufficiente luce o l'attenuano quando ce n'è troppa. Era una di quelle notti in cui nulla può andare storto, né dal punto di vista degli strumenti, né del tempo. La serata ideale, insomma, il cerchio si sta stringendo attorno alla preda braccata da mesi. L'unità speciale entra in azione contemporaneamente su due obiettivi. Sono le 20:07. Questa la testimonianza di Samir. Il colonnello Hickey mi chiamò e mi disse: abbiamo finito l'ispezione di Wolverine 1 e 2, non abbiamo trovato nessuno. Le due fattorie sono disabitate, nessuna traccia dell'obiettivo. L'operazione è iniziata da 31 minuti, ma senza nessun risultato. E invece Saddam è davvero lì vicino. Dal suo nascondiglio può sentire gli americani, ma loro non lo sanno. Il tempo passa, gli americani pensano si tratti dell'ennesimo buco nell'acqua. Poi però arriva una notizia. A poca distanza è stata individuata un'altra fattoria, sempre vicino al fiume Tigri. E allora adesso Muslit li deve portare lì. Nel buio, la strada che porta alla cascina è difficile da trovare. In mezzo ad un labirinto di sentieri, anche Muslit è incerto. Così il ricordo di Samir. C'erano così tante stradine. Era difficile capire quale fosse quella giusta. E Muslit continuava a dirci, questa qui, no no, quest'altra, quell'altra ancora. Ad un certo punto gli americani si sono innervositi ed hanno cominciato a urlargli contro. E io dietro a loro. A questo punto dovremmo vedere la fattoria. Dove diavolo sta? È lì, gira a destra. Ad un certo punto rallentammo. Eravamo quasi fermi. Quando riprendemmo a muoverci, fu proprio lì che gli americani cominciarono ad urlare contro Muslit. E alla fine lui ci ha portato verso la strada giusta. Saddam si nasconde nel suo bunker. Sono attimi di grande tensione. L'orologio segna le 20:10. Gli americani hanno raggiunto il nascondiglio segreto di Saddam, il bunker che avrebbe dovuto salvargli la vita. Gli sono proprio sopra, ma ancora non lo sanno. Hanno fermato un uomo, ma non sanno chi sia. La tensione è alle stelle. Dall'altro lato della fattoria, intanto, entra in azione un'altra unità operativa. Il tenente John Iversen occupa una posizione a soli 50 metri dalla fattoria. Questa è la sua ricostruzione. Il mio fuciliere controllò attraverso il nostro sistema di scansione digitale per verificare che tutto fosse a posto. Io mi ero già accorto che qualcuno era entrato nell'area della fattoria, ma ricordo che il fuciliere mi fece un cenno e mi disse: «C'è qualcuno che si muove nel frutteto qui accanto». Io mi misi i visori notturni e vidi che c'era qualcuno che stava uscendo. Il comandante mi disse di catturarlo. Dai, presto, andiamo! E catturai quell'uomo. Nella terza fattoria Saddam non c'è, sebbene ci siano i segni della presenza di qualcuno. Anche questa operazione sembra un fallimento, ma i militari americani hanno catturato due uomini. Non sanno chi sono, ma sanno che da loro devono ottenere l'informazione che serve e ottenerla a qualunque costo. Le provammo tutte per farli parlare, per farci dire dove fosse Saddam, ma loro continuavano a mentire. Facevano entrambi finta di non sapere nulla. I due prigionieri non parlano. Quando uno dei due si decide a svelare la posizione del bunker, i militari lo seguono nel bosco. Così il ricordo di Samir. Ci disse che quello era il bunker. Che significa? Gli chiesi. Lui indicò gli alberi e disse: «Per noi questo è un bunker. Eccolo il bunker». Dentro quella fattoria c'erano solo alberi, solo aranci. Credo che abbia provato a portarci lì per il semplice motivo che gli americani stavano proprio sopra al bunker. Per fargli paura e farlo parlare utilizzammo anche un cane. Non riuscimmo a sapere dove era Saddam. Io ero davvero stremato. Avevo pensato di essere a un passo dal catturarlo. Era stata l'occasione migliore per catturarlo. Invece brancolavamo nel buio. Su Mix 24 stiamo raccontando la storia della cattura di Saddam Hussein. Continuiamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la caccia a Saddam Hussein attraverso le testimonianze di chi ha partecipato alla missione Alba Rossa. È la notte del 13 dicembre del 2003. Samir, il giovane iracheno che partecipa all'operazione, e gli americani brancolano nel buio. Sono a un passo dalla cattura di Saddam, ma non lo sanno. Dai due iracheni che hanno catturato non riescono infatti a ottenere nessuna informazione. Poi, all'improvviso, qualcuno decide di portare nella fattoria direttamente Muslit, guardia del corpo di Saddam che li ha guidati fin lì. Ed è la svolta. Così la testimonianza di Samir. Ci disse: «Praticamente ci state sopra». Allora gli chiedemmo: «Sei sicuro?» E lui rispose: «Ma certo». Siamo stati noi a chiudercelo dentro. Ci indicò esattamente dove fosse la porta. Poi sbatté con i piedi su di un punto e ci disse: «Scavate qui». Scavate qui, Muslit non ha dubbi. Saddam è là sotto, proprio sotto i loro piedi, nascosto ad 1,80 m di profondità. La fuga del dittatore iracheno quindi sta per finire. L'operazione Alba Rossa ha raggiunto il suo obiettivo. Ma cosa ci sarà esattamente in quella buca? E come reagirà il dittatore? Sarà armato? Per gli americani è necessaria la massima prudenza. Queste le parole del nostro testimone diretto, Samir. Tirarono sulla copertura e io vidi subito una buca. Non potevo credere ai miei occhi. Eravamo abituati a vedere Saddam in televisione, l'eroe della nazione, il più potente, quello che aveva costruito migliaia di palazzi. E ora... ora non potevo credere che fosse lì, in una buca sporca e stretta. Non era possibile che Saddam fosse lì dentro. La sua guardia del corpo stava mentendo. Mi chiesero di entrare e di parlare con lui per farlo uscire fuori di lì. Poi però mi fermarono. Forse perché temevano che Saddam tirasse fuori una pistola e sparasse, o che provasse a suicidarsi, o che stesse per far esplodere una bomba. Io pensavo solo che davanti a me c'era l'uomo che aveva distrutto la mia vita. e che io lo volevo vedere. Volevo tirarlo fuori di lì. La prego, mi faccia parlare con Saddam. Ok, ma fa attenzione. Deve alzare tutte e due le mani. Non so perché, ma Saddam tirò su solo la sinistra, tenendo abbassata la mano destra. Gli dissi di nuovo di alzarle tutte e due. Di alzare tutte e due le mani. Sono le ore 20 e 15 e 38 secondi. Così la ricostruzione di Samir. Non potrò mai dimenticare quel momento. L'aspetto di Saddam quando lo tirammo fuori dalla sua tana. Disse qualcosa in inglese. L'America mente. Sembrava così vecchio, stanco. Un uomo completamente diverso. Con la sua barba incolta, i capelli così lunghi. Qualcuno lo prese per la barba e notò che era molto sporca. Chissà da quanto tempo non si lavava i capelli. Non si faceva una doccia. Ma è lui, è Saddam. Chiedigli come si chiama. È Saddam. Chiediglielo. Just like me. Any Saddam. Allora disse, sono Saddam. E loro mi chiesero di farglielo specificare. Saddam chi? Avevano bisogno del nome per esteso. Chiedigli Saddam chi? Cosa? Chiediglielo. Gullam, is make sure Saddam show. Gull. Saddam, sì. Esclamò, sono Saddam Hussein. Quando disse agli altri che era davvero Saddam Hussein, tutti esultarono. Urlavano dalla gioia. Ancora adesso faccio fatica a crederci. Un uomo così potente, completamente distrutto. Quell'uomo che avevo visto fin dalla mia nascita, forte, l'eroe della nazione. Catturarlo era stato un gioco da ragazzi. Gridò, le mie scarpe, le mie scarpe. Nella cultura araba, dire le mie scarpe è un'offesa, è come un insulto. È come dire, le mie scarpe sono meglio di te, meglio della tua famiglia, del tuo paese. Guardai Muslit e non mi sembrò molto contento. Dal suo sguardo capii che non era affatto felice. Muslit sa che la sua fine ormai è vicina. È stato lui a portare gli americani alla fattoria. Lui a indicare il bunker dove Saddam era nascosto. Muslit è stato a lungo la guardia del corpo personale di Saddam, ma adesso, per i fedelissimi del dittatore, naturalmente è solo un traditore a cui interessa soprattutto incassare la taglia milionaria sul Reis. Qualche giorno dopo la cattura di Saddam, il cadavere di Muslit viene ritrovato sulla riva del Tigri, crivellato di colpi. Saddam invece è stato catturato, sono le 20:26 del 13 dicembre del 2003. Così le parole del giovane Samir. 1-2-1 al comando. Obiettivo alto valore 1 è in custodia. Ripeto, è in custodia. Passo. Milioni di iracheni speravano di vedere quel momento. Saddam era proprio nelle mie mani. Tante cose mi passarono per la mente. Mi chiedevo, che cosa fare? Cosa devo fare? La prima reazione fu quella di ucciderlo subito. Ma purtroppo non potevo farlo. Volevo che Saddam rimanesse in vita per mostrarlo al mondo, per mostrarlo a tutti gli iracheni, il loro ex tiranno codardo. Hai distrutto il mio paese. Che fine hanno fatto tutte le promesse fatte in televisione? Dicevi che avresti combattuto contro di loro. Ma non l'hai fatto! Sei un codardo! Dov'è l'esercito? E la nazione armata? Ti sei nascosto come un topo! Chi combatterà per me fino alla morte? Tutti gli iracheni, che sono gli unici veri eroi. Combatteranno contro gli americani, combatteranno per me perché io sono Saddam Hussein, il presidente dell'Iraq. E tu? Non rivolgerti a me con questo tono! Io volevo proprio che si sentisse una nullità. Allo stesso modo in cui lui ci aveva fatto sentire tutti per anni. Sei una merda! Non parlare con me in questo modo! Sei un traditore, una spia! Tu non sei un vero iracheno! Hai ucciso gli sciiti, i curdi! Hai distrutto il mio paese! Non sono stato io a distruggerlo! Lo hanno fatto gli americani! Io sono Saddam Hussein! I buoni iracheni mi conoscono, non tu! Tu non sei buono! Tu non vali niente! A quel punto lo colpì. Gli diedi un paio di pugni in faccia, poi anche qualche calcio, sempre in faccia e sulla testa. Saddam cominciò a sanguinare dalla bocca. Non sopportavo che mi dicesse che ero un traditore, che ero una spia. Poi le forze americane mi fermarono. Perquisiscilo! Trovammo una pistola. Poi dovemmo spogliarlo perché temevamo avesse una bomba sotto la cintura. Dentro al bunker hanno trovato una scatola verde. Dentro c'erano soldi in contanti. In tutto 750.000 dollari. Quella notte ebbi una strana sensazione. Sentivo che sarebbe successo qualcosa. Avevo portato la mia macchina fotografica con me. Volevo mostrare al mondo che razza di codardo era Saddam, come lo avevamo trovato. Dovevo assolutamente fare una foto con lui. Devo fargli una foto a tutti i costi, per favore. Hai la macchina fotografica? Ok, veloce. Ricevetti una telefonata dal colonnello Hickey sul satellitare. Mi disse: ce l'abbiamo davvero fatta. Lo abbiamo preso. Sì. E il colonnello non aggiunse una singola parola. Disse solo che avremmo. Disse solo che avremmo dovuto notificarlo alle autorità competenti. Saddam Hussein è caduto, è stato catturato, come avete sentito dalla testimonianza del colonnello Steve Russell. Per gli americani, con la cattura di Saddam, la guerra sembra finita. In realtà le cose, come sappiamo bene, non sono andate così, ma molto, molto diversamente. Per Samir è la realizzazione di un sogno e in quel 13 dicembre del 2003 l'euforia per la cattura prevale su ogni considerazione. Dopo l'arresto, Saddam va portato al più presto in un luogo sicuro. Così il racconto di Samir. A quel punto era necessario far uscire Saddam Hussein da quel luogo, dalla fattoria. Lui osservava tutti i soldati a destra e a sinistra e procedeva senza dire una parola. Guardava e basta. Io continuavo a parlargli in arabo e ricordo bene che il colonnello Hickey della fanteria americana stava a sentire. Io gli urlai addosso tutta la mia rabbia, lo riempì di parolacce. Allora Hickey mi disse di smetterla. Mi disse: stai zitto! Poi lo portammo fuori dalla fattoria. Io camminavo con Saddam e due soldati. Lo conducemmo fuori e io stavo con lui. Gli camminavo dietro tenendolo per la camicia. Fuori dalla fattoria dovemmo attendere l'elicottero che lo venisse a prendere per poi portarlo via in un altro posto. Era una notte molto scura. In Iraq una delle cose più belle è il cielo. Si possono ammirare le stelle ad una. Il cielo dalla nostra terra è magnifico. Ad un certo punto Saddam alzò lo sguardo. Signore e signori, lo abbiamo preso. Saddam Hussein è stato catturato sabato 13 dicembre intorno alle 8:30 locali. Questo è Saddam, stamattina, mentre veniva sottoposto alle visite mediche. Più di un risultato militare quello raggiunto dall'unità delle forze speciali americane. Così ricordi del generale Rai Odierno e di Samir. Saddam era riuscito a far credere a molti iracheni di essere praticamente invincibile. Ma il modo in cui si è arreso, consegnandosi nelle nostre mani senza opporre resistenza, dimostrò il contrario. Credo che quell'evento offuscò per sempre l'immagine di Saddam Hussein agli occhi degli iracheni. Questo è l'uomo per cui ho dovuto lasciare il mio paese. Non ho visto la mia famiglia per 15 anni per colpa sua, ma lo abbiamo preso. Abbiamo preso Saddam. Per me è stata una sensazione speciale. Perché io sono stato una vittima di Saddam. Mix 24, la storia. Gian Ludovico De Martino di Montegiordano. Oggi è il presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, ma dal 99 al 2003 era capo della delegazione diplomatica speciale a Baghdad. Lei ha conosciuto Saddam? E una volta sola, in occasione di una parata che venne organizzata a novembre 2000. Che impressione ha avuto? Ma era una persona, direi, che dava l'impressione di essere provata, ecco, non aveva l'aspetto felice. Ecco, lei è un testimone della storia comunque, perché in Iraq, durante l'operazione Iraqi Free e la cattura di Saddam, lei c'era. C'era quell'atmosfera di terrore di cui si parlava in Occidente? Ma l'atmosfera era andata degenerando. Noi tornammo in Iraq il 24 di aprile e la situazione era tale che si poteva girare liberamente, c'erano ovunque manifestazioni così di esultanza, la gente era estremamente contenta, non c'era un problema così percepito di minaccia terroristica. Poi è peggiorato. Poi è peggiorata a partire dal ci fu l'attentato alle Nazioni Unite, prima ancora quello all'ambasciata giordana. E di lì è peggiorato il clima. E poi lì il clima peggiorò e ci fu questa offensiva terroristica che poi entrò più nel vivo da novembre-dicembre del 2003. Ecco, ma sostanzialmente noi abbiamo combattuto una guerra in Iraq senza dichiararla? No, l'Italia non ha partecipato alle ostilità. Noi con la missione antica Babilonia abbiamo partecipato all'intervento multilaterale di stabilità, sicurezza e assistenza nel quadro delle riduzioni. Sì, naturalmente, però di fatto siamo stati oggetto di attacchi. Siamo stati oggetto di attacchi, certo che noi avevamo la responsabilità che la provincia del Dikar, che era il nodo strategico fondamentale per tutto l'afflusso dei rifornimenti per la popolazione civile. E quindi siamo diventati un bersaglio, e la Siria ne è stata la prova? Sì. Sì, eravamo un bersaglio. Ecco. Senta, ma che cosa ha significato l'impiccagione di Saddam per gli sciiti in Iraq? Ma il processo che si è concluso con la condanna a morte di Saddam Hussein era quello della strage di Dujail, che era un villaggio sciita a nord di Baghdad, dove nell'82 vennero uccisi 148 abitanti dopo un fallito attentato contro Saddam. Quello è stato il pretesto, sì. In questo senso la condanna, le esecuzioni di Saddam Hussein hanno assunto una connotazione simbolica molto forte per gli sciiti, soprattutto quelli appartenenti o vicini al Dawa, il movimento antiregime che era poi responsabile dell'organizzazione dell'attentato, che poi dopo la caduta del regime è diventata una delle espressioni politiche più importanti degli sciiti. Ecco, senta, Bush Senior, Bush Junior contro Saddam. Nel 2006 il Raisi appunto viene giustiziato, ma in realtà è servito a qualcosa? L'esecuzione di Saddam appunto avviene il 30 dicembre del 2006, il regime era caduto da 3 anni e mezzo, tra l'esultanza della stragrande maggioranza degli iracheni, approvata una nuova costituzione, 3 cambi di governo dopo consultazioni elettorali, Allawi, Jafar e al-Maliki, anche la componente che si potrebbe definire nazionalista, che raccoglieva anche nostalgici del regime Batista, che prima si era autoesclusa dalla partecipazione alla politica, aveva accettato oramai il processo politico e partecipava. Ma non era una minaccia di restaurazione del regime di Saddam. Ecco, ma quale democrazia abbiamo esportato in Iraq, in sostanza? Ma noi abbiamo Occidente. Noi no, perché poi sono gli iracheni che hanno approvato la Costituzione. E naturalmente, è un sistema rappresentativo, pluripartitico, anzi una peculiarità è che nessun partito finora è mai riuscito a avere la maggioranza assoluta, tant'è che tutti i governi sono governi di coalizione, molto ampia. Questo abbiamo esperienza di questo in Italia. Delle autonomie locali. Ecco, questo direi. Senta, sono... però, ambasciatore, io volevo, la domanda aveva un altro significato. Sì. Esportare la democrazia può essere una linea strategica di politica estera, come è stato per Bush Senior e Bush Junior? Ma non credo che si possa generalizzare, dire che la democrazia sia esportabile in quanto tale. No, infatti tale. Io chiedo se nel concreto... Quello, in concreto, quello che si è visto lì, che aveva un paese che aveva una tradizione democratica precedente, fino all'avvento del regime Batista, con partiti anche radicati, c'era una forte tradizione... del partito comunista nel sud, c'era un partito liberale, c'erano partiti agrari, c'era tutta una sottostante così, sì. C'era stato una democrazia, poi ognuno ha la democrazia secondo, no, naturalmente, che corrisponde alla propria cultura. Alla propria cultura. E quando è caduto il regime, queste forze sono poi venute di nuovo. Quindi non sono forze che sono state inventate, ma sono forze che hanno ripreso vite, che facevano parte della storia. Anche i partiti di ispirazione religiosa, siano essi sciiti o sunniti, eccetera, rappresentano realtà così che sono. Tenga presente che il partito che ha avuto la maggioranza relativa alle ultime elezioni, il partito di Allawi, poi è un partito secolare. Questo ho capito. Senta, un'ultima domanda, ambasciatore. Il futuro dell'Iraq come lo vede? È un paese estremamente ricco di risorse, non soltanto petrolio e gas, ma anche un'agricoltura che ha un forte potenziale. Era un paese che esportava derrate alimentari fino agli anni 60, poi per una storia di... Ma oggi sta meglio l'Iraq di come stava sotto Saddam o no? Economicamente credo siano senz'altro meglio. Ecco, basta vedere il livello dei salari del settore pubblico, che sono tra i più elevati della regione. Grazie ambasciatore, grazie mille. Grazie a voi. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.